adesso tutto è fatto ormai. Tu non sai la forza che mi dai, ma conosco i rimpianti che lasci, tu conosci i miei. Lascia una donna che crede solo in me, tu distruggi un uomo che il suo mondo ha dato a te. Senza rispetto si parlerà di noi, tutto questo io lo accetto. Non si vive un'altra volta questo, per l'orgoglio mio mi avevo.